Non faccio nulla per l'hip hop, è l'hip hop che fa per me. Non faccio nulla per l'hip hop, è l'hip hop che fa per me. Non faccio nulla per l'hip hop, è l'hip hop che fa per me. Non faccio nulla per l'hip hop, è l'hip hop che fa per me. Sono hip hop, cazzi miei stop, giro col top, tu alla cop, busso toc toc, non ti do il crack, io porto una bomba che fa tic tic tac, rimo chak boom, fanno oh oh, pochi soldi vorrei tutti invece oh oh, ai concerti vedo i figli con i papà, che mi guardano come se fossi il papa, fuori dal tunnel come il capa, al numero uno ci sta fibra con la rapa, la tipa si arrapa, la data zero, come l'hanno, tutti gli altri rapper come l'hanno presa, come la corrente, non faccio rap, seguo la corrente, nell'anno corrente, un nuovo concorrente, un corpo nel torrente, un deterrente, fosse un palazzo l'hip hop sarei lattico, arrivo con il rap, mega galattico, mando fuori come l'acido, lattico, come il premier, tattico, tanto tantrico, ovvio, artista miragico, e se va bene a me non c'è nulla di magico. Nella mia testa sento le basi che girano con i piattini che fanno. Sono hip hop, cazzi miei stop, giro col top, tu alla cop, busso toc toc, non ti do il crack, io porto una bomba che fa tic tic tac, rimo chak boom, fanno oh oh, pochi soldi vorrei tutti invece oh oh, ai concerti vedo i figli con i papà, che mi guardano come se fossi il papa. Faccio questo finché sono in vita, la gente mi schiva, nah, la gente mi invita, apro la testa, protesta, salta la festa, le mani su, la gente manifesta, c'è sempre meno festa, un capodanno è il contrario, dico tutto, poi dico tutto il contrario, tu non hai fans, vai e cerca persone, brr, brr, come un cerca persone, non venirmi a dire aiutami a svoltare, aiutami a svoltare, aiutami a svoltare, se non sei neanche in grado di co-co-co contare, di co-co-co contare, 0, 1, 2 tare, le voglio montare, queste repettare, non posso più aspettare, la rima giusta chiude il pezzo bene, ma non mi viene. Sono hip hop, cazzi miei stop, giro col top, tu alla cop, busso toc toc, non ti do il crack, io porto una bomba che fa tic tic tac, rimo chak boom, fanno oh oh, pochi soldi vorrei tutti invece oh oh, ai concerti vedo i figli con i papà, che mi guardano come se fossi il papa. Sono hip hop, cazzi miei stop, giro col top, tu alla cop, busso toc toc, non ti do il crack, io porto una bomba che fa tic tic tac, rimo chak boom, fanno oh oh, pochi soldi vorrei tutti invece oh oh, ai concerti vedo i figli con i papà, che mi guardano come se fossi il papa.